giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Consiglio regionale al lavoro sulla riforma elettorale approvata dalla Giunta e sostenuta dal centrodestra. Nel pomeriggio è atteso il varo della legge che prevede il quorum al 40% per l'elezione al primo turno dei sindaci dei comuni maggiori e la possibilità di 3 mandati consecutivi nei municipi fra 1.000 e 15.000 abitanti. MSC e Ansaldo entrambi presenti al tavolo Varsila in corso da 2 ore a Roma al Ministero delle Imprese. La società armatrice punta a realizzare a Bagnoli della Rosandra carri ferroviari. La società genovese propone di proporre elettrolizzatori. Dal tavolo ci si attendono piani industriali e la risposta alla domanda: i due progetti possono convivere? I carabinieri di Spilimbergo indagano sulla caduta dalla finestra di un ragazzo di 16 anni avvenuta nella notte nella frazione di Tauriano. Il volo da un'altezza di 6 metri, il giovane è in condizioni gravissime all'ospedale di Udine. Miran Hrovatin, 30 anni dopo l'agguato in cui perse la vita in Somalia, ucciso insieme ad Ilaria Alpi. Lo hanno descritto con emozione la moglie e il figlio nella sala del Consiglio Comunale di Trieste, affollata di amici e colleghi dell'operatore triestino. Se è funzionale allo svolgimento della propria attività professionale, il fisioterapista può fare ecografie per capire lo stato di salute del paziente. Lo dice un giudice di Pordenone che ha assolto un fisioterapista dall'accusa di esercizio abusivo della professione medica. Annunciata in mattinata la cinquina degli scrittori finalisti del premio Terzani 2024, sono Ai Weiwei, Sally Hayden, Benjamin Labatut, Leila Motley, Dami Rovcina. A metà aprile l'indicazione del vincitore, la sera dell'11 maggio la premiazione. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Francesca Terranova e Antonio Cagliazza. La riforma elettorale progettata dal centrodestra e formalizzata in un disegno di legge della Giunta da stamattina è all'esame del Consiglio regionale. Contestata fortemente dalle opposizioni, prevede, fra le altre cose, l'abbassamento al 40% del quorum per l'elezione dei sindaci nei comuni sopra i 15.000 abitanti. Terzo mandato per i sindaci dei comuni con meno di 15.000 abitanti e soglia del 40% come percentuale di voti sufficienti al primo turno per evitare il ballottaggio. Sono le novità introdotte dalla nuova legge elettorale regionale in discussione in Consiglio. Non c'è alcun golpe in atto né alcuna soppressione della democrazia, hanno affermato i relatori di maggioranza. Anzi, si tratta di una risposta al fenomeno dell'astensionismo. Antonio Calligaris della Lega. Misura di buon senso per il terzo mandato ai sindaci fino ai 15.000 abitanti, perché deve essere il cittadino a decidere e non un limite di legge. Sul ballottaggio, anche qui si elimina una distorsione, un sindaco che viene eletto al ballottaggio con meno voti del suo competitor al primo turno. Secondo luogo, non credo che i cittadini e gli elettori siano proprio entusiasti di andare a votare 2 volte in un mese quando si sono già espressi al primo turno. Contrari per metodo e contenuti le opposizioni. Marco Putto del Patto per l'Autonomia. Una norma che è stata presentata in fretta per volere esclusivo della maggioranza in risposta alle elezioni di Udine, che non affronta i veri temi del perché non si va a votare, ma semplifica ad uso e consumo della maggioranza la questione elettorale. Francesco Russo del Partito Democratico. Questa norma cancella il ballottaggio. Una delle cose che piace di più ai cittadini, che hanno potuto negli ultimi 30 anni scegliere i propri candidati e coloro che li governano. Non si capisce perché questa norma, bocciata a Roma, viene riproposta in Friuli Venezia Giulia. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. È iniziato alle 10.30 al Ministero il tavolo sul futuro dell'ex stabilimento Varsila. Oltre ai rappresentanti di MSC ci sono anche quelli di Ansaldo, un incontro dal quale potrebbe emergere finalmente qualche punto fermo. Un piano industriale per l'ex stabilimento Varsila e la garanzia del subentro a fine giugno alla scadenza dei contratti di solidarietà. Questo si aspettano oggi i sindacati da MSC, il più importante gruppo che gestisce linee cargo nel mondo. A Bagnoli della Rosandra il colosso svizzero vorrebbe costruire carri speciali per trasportare merci da utilizzare nelle compagnie ferroviarie e nei poli logistici che controlla. Mezzi particolari, aveva spiegato qualche tempo fa l'armatore a Ponte, che permettono di trasportare più carico. Ma non è tutto. Al tavolo in corso da un paio d'ore al Ministero delle Imprese del Made in Italy è presente anche Ansaldo, l'altro possibile protagonista del dopo Varzila a Bagnoli della Rosandra. Il gruppo genovese, controllato da Cassa Depositi e Prestiti, era entrato in campo con un piano industriale per la produzione di elettrolizzatori, dispositivi destinati alla produzione di idrogeno. Sarà possibile la convivenza tra i due progetti oppure Ansaldo uscirà di scena? Dopo tante incertezze, l'appuntamento di oggi a Roma, presente l'assessore al lavoro Rosolin e il presidente Fedriga in videocollegamento, potrebbe mettere qualche punto fermo. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia. 30 anni fa l'uccisione a Mogadiscio in Somalia della giornalista del TG3 Ilaria Alpi e dell'operatore triestino Miran Hrovatin. Una cerimonia di commemorazione si è svolta stamattina nel Consiglio Comunale di Trieste. Abbiamo intervistato la vedova Patrizia Scremin e il figlio Ian. 30 anni fa ero così piccolo che è un evento che superava la mia capacità di intendere a 8 anni, no? Per cui è stata come una specie di esplosione di un fuoco artificiale che ti lascia un po' rintontito durante una decina d'anni, così. Nei miei ricordi era un padre straordinario e un grande professionista, era una persona molto solare che prendeva la vita alla leggera nonostante facesse un lavoro molto pesante, e questa è la persona che ha continuato a ispirarmi durante questi 30 anni, una persona appassionata per la vita. È cambiato in 30 anni il modo in cui vivete questo anniversario? Ogni volta con meno peso nel cuore, diciamo, no? Evidentemente sempre una ricorrenza difficile, però che riusciamo a vivere con l'allegria che ci dà l'ispirazione di Miran come una figura paterna, pubblica e familiare. Per me invece è diverso, è giovane, no, per me è un anniversario, è veramente una cosa potente proprio. Avete la speranza che si possa arrivare a una verità? La speranza è l'ultima a morire, però per il momento non si sa assolutamente niente. Speriamo ci sia la volontà di trovare la strada giusta, che sarebbe giusto nei confronti di Miran e di Ilaria. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo la cerimonia in municipio, amici e colleghi dell'Ordine dei giornalisti, Assostampa, Articolo 21 e Fondazione Lucchetta Ota d'Angelo Hrovatin hanno reso omaggio alla lapide che ricorda Miran Hrovatin nella Pineta di Barcola. Nel pomeriggio invece sarà proiettato Saluti da Miran, il film di Giampaolo Penco, in cui la Video Est, la casa di produzione di Miran, ma anche la moglie, il figlio e i suoi amici, raccontano la sua storia e la sua vita. L'appuntamento è al Teatrino Basaglia di Trieste alle 17. Giornata di sciopero degli avvocati oggi, proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane in forma di solidarietà per le condizioni di vita dei detenuti e per ricordare i 26 suicidi in carcere in tutta Italia da inizio anno. A Gorizia gli avvocati hanno inscenato un sit-in dinanzi all'ingresso del carcere di via Barzellini per una breve manifestazione simbolica. Sono 26 i suicidi da inizio anno nelle carceri italiane, un dato molto preoccupante anche per gli avvocati penali di Gorizia, che oggi hanno voluto manifestare davanti alla casa circondariale di via Barzellini la pesante situazione in cui si trovano a causa del sovraffollamento, della cronica mancanza degli agenti penitenziari e della vetustà delle strutture. Antonio Montanari, vicepresidente della Camera Penale di Gorizia. La manifestazione odierna è concomitante con quella che si sta svolgendo a Roma per iniziativa dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Oggi è un giorno di astensione dalle attività penali e dalle udienze penali e noi abbiamo inteso portare il nostro messaggio proprio qui sotto il carcere. Quello delle carceri italiane è un tema che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha più volte posto al Governo e al Parlamento. Elisa Sottosanti, del direttivo delle Camere Penali di Gorizia. Il messaggio che vuole lanciare l'Unione Camere Penali è quello di evitare sì il sovraffollamento attraverso dei sistemi alternativi alla detenzione in carcere, quindi alternativi per l'espiazione della pena, quindi non tanto costruire nuove carceri quanto puntare più sugli strumenti alternativi alla detenzione laddove possibile. A Gorizia attualmente sono 78 i detenuti nella struttura di via Barzellini, 8 riescono ad usufruire di un lavoro esterno, ma è all'interno che nascono le maggiori criticità. Don Alberto De Nadai, assistente spirituale del carcere di Gorizia. In questo preciso momento sono 18 che stanno facendo il Ramadan e il Ramadan crea uno scompiglio molto forte nelle celle perché alla sera devono mangiare, allora creano un po' di confusione per chi vuole riposare. Gorizia, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, ha diffuso una lettera agli associati in cui segnala che è stata pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile l'ordinanza del Capo Dipartimento della stessa Protezione Civile con cui è stata adottata la misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio del Friuli Venezia Giulia. L'ordinanza, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, recepisce i contenuti dell'accordo sottoscritto da ABI e dalle associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile per le banche dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui. Due giorni di lavoro per gli stati generali per lo sviluppo sostenibile dell'Alto Adriatico e dell'Europa centrale, con confronti ed approfondimenti fra tecnici e rappresentanti istituzionali. Il tema di quest'anno è la qualità dell'aria. La differenza possono farla i comportamenti quotidiani, su questi è più facile incidere da subito. Ecco perché la regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di stanziare 3 milioni di euro per il rinnovamento delle stufe a legna. L'annuncio nel corso degli stati generali della sostenibilità dell'Alto Adriatico e del Centro Europa. In evidenza dal rapporto dell'ARPA FVG del 2023 i valori di polveri sottili di poco superiori a quelli dell'anno precedente. La norma fissa a 35 il numero massimo di sforamenti. In Friuli Venezia Giulia lo scorso anno soltanto Brugnera ha riportato una quantità superiore di sforamenti pari a 46 giorni, dallo studio delle origini alle azioni da sviluppare, in particolare sul riscaldamento domestico. Anna Lutman, direttrice ARPA FVG. Agire lì significa abbattere anche del 20-30% la concentrazione di polvere, quindi massima efficienza nel riscaldamento domestico, soprattutto nelle stufe, nelle legna, imparare a usare bene anche il riscaldamento, come accendere il fuoco, avere stufe efficienti e come gestire il fuoco nella stufa. Fabio Scoccimarro, assessore regionale all'ambiente. Purtroppo i caminetti sono molto belli, però inquinano, quindi cambiamo quelli che sono le vecchie stufe a legna e dando la possibilità di comprarne nuove pagate interamente dalla regione, quindi qualche migliaio di euro verrà dato un contributo che può coprire anche il 100% per mettere caminetti di ultima generazione rottamando quelli vecchi. Alla fine del vertice transnazionale verrà sviluppato un documento per un accordo che sarà firmato a settembre per avere politiche condivise nei prossimi anni. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una sentenza pronunciata da un giudice del Tribunale di Pordenone fa esultare l'Ordine regionale dei fisioterapisti. È stato infatti assolto un professionista che era stato accusato di esercizio abusivo della professione medica per aver impiegato un ecografo per valutare la condizione di un paziente, per aver formulato diagnosi considerate riservate ai laureati in medicina e chirurgia. Il fisioterapista, con una sentenza depositata lo scorso 7 marzo, è stato assolto perché il fatto non sussiste. La sentenza, pur su uno specifico caso, è di notevole importanza, commenta Melania Salina, la presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Friuli Venezia Giulia, perché conferma la possibilità di utilizzo dell'ecografo e rilevante anche la sottolineatura del fisioterapista come professionista sanitario che collabora nella tutela della salute del paziente senza essere sottoposto al medico nell'esercizio delle competenze professionali. 14 cantieri in corso, 10 appena conclusi, altri 12 in fase di progettazione per un totale di 40 milioni di euro movimentati. Sono alcuni dati di sintesi su opere pubbliche e investimenti del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, dati illustrati dal presidente Walter Colussi e dal direttore Massimiliano Zanet. Annunciata anche l'imminente entrata in servizio dei nuovi impianti irrigui ad aspersione di San Quirino, Fontana Fredda, Balbasone Arzene e Sesto al Reghena. I nuovi sistemi garantiscono un abbattimento dei consumi d'acqua. Dopo molti anni è partita anche la manutenzione dei corsi d'acqua naturali della Bassa Pordenonese, intervento vitale in previsione di sempre più violenti fenomeni atmosferici. Fra le novità per i consorziati, quella relativa al risparmio che si prevede di applicare nel 2024 per i canoni dell'irrigazione. Grazie al calo dei prezzi dell'elettricità, schizzati alle stelle dopo l'invasione russa in Ucraina, i contributi richiesti agli agricoltori scenderanno infatti fino a 15 euro ad ettaro. Il consorzio Cellina Meduna dà lavoro a un'ottantina di collaboratori con una spesa annua vicina ai 5 milioni di euro. Condividere l'energia che viene prodotta all'interno della comunità con benefici economici, sociali e soprattutto ambientali per tutta l'area in cui operano è l'obiettivo delle comunità energetiche nate alcuni anni fa, ma che potrebbero diventare concrete solo ora. Cittadini e attività commerciali, pubbliche amministrazioni che si uniscono con l'obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale si chiamano comunità energetiche, se ne parla ormai da 3 anni, ma solo in questi giorni sono usciti i decreti attuativi che danno davvero il via alla svolta. Matteo Mazzolini, direttore Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia. Con la fine di febbraio si è reso disponibile l'ultimo strumento che stavamo aspettando, ovvero le regole operative per l'accesso agli incentivi da parte del GSE. Quindi oggi il quadro normativo rispetto a quanto abbiamo sperimentato negli ultimi 3 anni è sufficientemente completo per effettivamente partire con queste iniziative, quindi sviluppare e costituire comunità energetiche che poi avranno diritto a un incentivo per l'energia condivisa. Ci sono realtà già pronte a partire? Stupirà sentirlo, ma le prime saranno le parrocchie. Una comunità si è già costituita a San Domenico, a Udine, una comunità in via di costituzione a Ospedaletto di Gemona, se ne sta discutendo alla parrocchia San Rocco di Gorizia, quindi sul territorio c'è molta aspettativa e credo che proprio per gli obiettivi mutualistici che le parrocchie perseguono, quindi quelle effettivamente di dare un aiuto alle famiglie in povertà energetica, queste saranno probabilmente le iniziative che per prima riusciranno a concretizzarsi. Lo scopo delle comunità energetiche non è tanto risparmiare sulla bolletta quanto smarcare il paese dalle fonti fossili, utilizzando fonti rinnovabili a benessere dell'ambiente. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Cambio ai vertici del Civiform con la nomina di un nuovo presidente e la costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione. Roberto Molinaro, un'esperienza ultra trentennale nell'ambito dell'istruzione e della formazione, subentra alla presidenza a Luigi Papais. E passiamo ai temi della cultura. Ai Weiwei per 1000 anni di gioie e dolori. Sally Hayden per La quarta volta siamo annegati. Benjamin Labatut per Maniac. Leila Motley per Passeggiare la notte. Ed Amy Rovcina per Preghiera nell'assedio. Sono questi i 5 finalisti della 20ª edizione del Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani. Riconoscimento istituito dall'Associazione Culturale Vicino Lontano di Udine insieme alla famiglia Terzani nel segno del giornalista e scrittore fiorentino. Se non insistiamo nel pretendere il diritto di tutti all'informazione e alla libera espressione del pensiero, rischiamo di perderlo ed è così che la democrazia scompare, scrivono i giurati. Il vincitore sarà annunciato a metà aprile e sabato 11 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine sarà protagonista della serata nel ventennale dalla scomparsa di Tiziano Terzani. La 20ª edizione del Festival Vicino Lontano è in programma a Udine dal 7 al 12 maggio. Un cartellone che si appresta a ospitare voci importanti della letteratura e della riflessione saggistica del nostro tempo è quello che offre la 6ª edizione del Festival Monfalcone Geografie, promosso dal Comune di Monfalcone con la Fondazione Pordenone Legge, da oggi a domenica. La cura artistica è affidata a Gianmario Villalta, che in questa intervista ci spiega quali sono le geografie al centro della rassegna. Geografie che sono del luogo dove si vive e dove si andrà il Festival Monfalcone e ampi dintorni, geografia proprio nel senso di com'è la conformazione del terreno, di com'è il mare, di come si può viaggiare, ci si può vivere, geografie anche che sono testimonianza della storia, quindi vicende del passato, che dal territorio dove ci si trova, come sempre nella vita, poi si aprono verso il mondo. Il libro chiaramente al centro di tutte le vicende, ogni appuntamento è legato a un libro. Quali sono le voci che racconteranno queste geografie del nostro tempo? sono tanti gli appuntamenti, scelgo solo alcuni riferimenti, andando da Andreoli che inaugurerà alle 18, raccontando l'economia del bene, appunto, come l'economia dovrebbe essere vissuta invece di come è, siamo costretti a viverla. E poi Tamaro chiude alla fine, Susanna Tamaro, nel frattempo avremo appuntamenti con chi ci parlerà di economia e poi avremo Carrisi che ci racconta le paure dei suoi personaggi di un mondo in giallo dove c'è un thriller, insomma, interiore. Abbiamo Terpanoni che si parla per esempio dell'arte e delle geografie attuali del mercato artistico, ma anche di tutta la vicenda dell'arte nel passato. C'è un sito dove si può andare a vedere e come sempre bisogna fare delle scelte. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 12:51 minuti, l'assistenza tecnica è stata assicurata da Giampaolo Zucchi e da Walter Vidonis. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Vi invitiamo anche a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili Facebook, Twitter e Telegram della redazione e sul sito che è raggiungibile all'indirizzo rainews.it/tgr/fvg. Grazie della cortese attenzione. Da Francesca Terranova e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.